Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. La precoce morte di mia madre, spentasi a 18 anni al suo primo parto, fu certo una conferma, se non l'origine, di una voce popolare secondo cui l'odio del proprietario defunto rendeva per sempre fatale alle donne il soggiorno o anche il semplice ingresso nella casa dei Guaglioni. Mio padre aveva appena un mezzo sorriso di irrisione per tale favola paesana, così che anch'io, fin da principio, imparai a considerarla col disprezzo dovuto per quella superstiziosa frottola che era. Essa però aveva acquistato una tale autorità nell'isola che nessuna donna accettò mai d'essere nostra domestica. Durante la mia infanzia ci servì un garzone nativo di Napoli, di nome Silvestro, il quale, al tempo che era entrato in casa nostra, poco prima della mia nascita, aveva 14 o 15 anni di età. Egli se ne ritornò a Napoli al tempo del suo servizio militare e fu sostituito da uno dei nostri coloni, che veniva soltanto un paio d'ore al giorno per la cucina. Nessuno si dava pensiero del disordine sudiciume delle nostre stanze, che a noi pareva naturale come la vegetazione del giardino incolto fra le mura della casa. Di questo giardino, oggi cimitero della mia cagna Immacolatella, è impossibile fare una descrizione rassomigliante. Vi si trovavano, fra l'altro, a marcire, intorno all'adulto carrubo, perfino delle carcasse di mobilia ricoperte di muschi, delle stoviglie rotte, delle damigiane, dei remi, delle ruote, e in mezzo ai sassi e ai rifiuti vi crescevano delle piante dalle foglie gonfie, spinose, talvolta bellissime e misteriose come piante esotiche. Dopo le piogge vi risuscitavano pure a centinaia dei fiori di razza più nobile, da seme e da bulbo, sepolti là chissà da quando, e tutto bruciava come incendiato nella siccità estiva. Nonostante la nostra agiatezza, noi vivevamo come selvaggi. Un paio di mesi dopo la mia nascita, mio padre era partito dall'isola per un'assenza di quasi mezz'anno, lasciandomi nelle braccia del nostro primo garzone, che era molto serio per la sua età e mi allevò con il latte di capra. Fu il medesimo garzone che mi insegnò a parlare, a leggere e a scrivere. E io poi, leggendo i libri che trovavo in casa, mi sono istruito. Mio padre non si curò mai di farmi frequentare le scuole. Io vivevo sempre in vacanza e le mie giornate di vagabondo, soprattutto durante le lunghe assenze di mio padre, ignoravano qualsiasi norma e orario. Nessuno pensava a fornirmi di denaro e io non ne chiedevo. Ma del resto non ne sentivo il bisogno. Non ricordo di avere mai posseduto un soldo in tutta la mia infanzia e fanciullezza. Il podere, ereditato dal nonno Gerace, forniva i prodotti necessari al nostro cuoco, il quale non si scostava molto dai primitivi e dai barbari nell'arte della cucina. Egli si chiamava Costante ed era taciturno e rozzo per quanto il suo predecessore, Silvestro, colui che potrei chiamare in certo modo la mia balia, era stato gentile. Le serate invernali e i giorni di pioggia io li occupavo con la lettura. Dopo il mare e i vagabondaggi per l'isola, la lettura mi piaceva più di tutto. Per lo più leggevo in camera mia, sdraiato sul letto o sul canapè, con Immacolatella ai miei piedi. Le nostre camere davano su un corridoio stretto, lungo il quale, un tempo, si aprivano le celle dei frati, in tutto forse una ventina. Quanto a me e a mio padre, i nostri indumenti noi non li riponevamo in nessun posto. Le nostre camere disponevano di cassettoni e di armadi, i quali ad aprirli minacciavano di crollarci addosso ed esalavano gli odori di chissà quali defunte borghesie borboniche. Ma a noi questi mobili non servivano, se non per gettarvi dentro oggetti fuori uso che ingombravano la stanza, per esempio scarpe vecchie, fiocine rotte, camicie ridotte a stracci. Credo che i ragni, le lucertole, gli uccelli e in genere tutti gli esseri non umani dovessero considerare la nostra casa una torre disabitata dell'epoca di Barbarossa o addirittura un faraglione del mare. lungo i muri esterni, da fessure e camminamenti segreti, spuntavano le lucertole come dalla terra. Le rondini a migliaia e le vespe vi facevano i nidi. Quanto alle visite degli umani, procidani o forestieri, da anni la casa dei Guaglioni non ne riceveva mai nessuna. Al primo piano c'era l'antico refettorio dei frati, trasformato dall'Amalfitano in sala di ricevimento. Era qui che si davano convegno, tra suoni e canti, le compagnie dei Guaglioni, ai tempi dell'Amalfitano. Qualche traccia delle loro feste rimaneva ancora nello stanzone, il quale ricordava un poco le sale di certe ville occupate da conquistatori in guerra, o, per alcuni aspetti, i cameruni delle carceri, e in genere tutti i luoghi nei quali giovani e ragazzi si ritrovano in compagnia senza donne. Le stoffe sporche e mal ridotte dei divani mostravano delle bruciacchiature di sigarette, e sulle pareti, come pure sui tavolini, si vedevano scritte disegni, nomi, firme, frasi di beffa o anche di malinconia e di amore e versi ripresi dalle canzoni. Anche in altre stanze si poteva ritrovare qualche simile traccia degli ospiti passati. Per esempio, in una cameretta fuori uso, al di sopra di un'acquasantiera di alabastro rimasta dai tempi del convento, sulla carta di Francia si leggeva ancora, sebbene estinta, una firma a penna fra molti svolazzi: Taniello. Ma fuori di queste firme sconosciute e disegni senza valore, non si trovava più niente nella casa a testimoniare il tempo delle feste, dei conviti. Così, tutti i fatti avvenuti nella casa dei Guaglioni prima della mia nascita sono giunti a me incerti, come avventure lontane di secoli. Anche del breve passaggio di mia madre, se ne tolgo il ritrattino famoso che Silvestro aveva conservato per me, io non ho potuto ritrovare nessun segno nella casa. Dallo stesso Silvestro ho saputo che un giorno, quando io avevo circa 2 mesi di età, arrivarono certi parenti di massa, dall'aspetto di contadini, i quali si portarono via, come fosse loro legittima eredità, tutto quanto aveva appartenuto a mia madre. Il suo corredo, recato in dote, i suoi vestitini, perfino i suoi zoccoletti, il suo rosario di madreperla. Essi certo s'approfittarono che non c'era in casa nessuna persona adulta a fare opposizione, e Silvestro, a un certo punto, temette addirittura che volessero portar via anche me. Allora, con un pretesto, corse nella sua cella dove m'aveva messo a dormire sul letto e mi nascose in fretta dentro la cassa da pasta dei suoi indumenti, la quale, con il coperchio sconquassato, lasciava passare l'aria. Accanto mi mise il ciuccetto pieno di latte di capra, affinché se mi svegliavo stessi zitto e non dessi segno della mia presenza. Ma io non mi svegliai e rimasi muto durante tutta la visita dei parenti, i quali del resto non si preoccuparono molto d'avere mie notizie. Soltanto sul punto d'andar via con il loro fagotto di roba, uno di loro, più per convenienza che per altro, domandò se crescevo bene e dove stavo. E Silvestro gli rispose che stavo a Balia. Essi furono contenti di questo e se ne ritornarono per sempre a Massa, da dove non hanno mai più dato notizie di sé. E così passava la mia infanzia solitaria, nel palazzo negato alle donne. In camera di mio padre c'è una grande fotografia dell'Amalfitano. Vi è ritratto un vecchio snello, insaccato in una giacca lunga, con i pantaloni fuori moda, piuttosto stretti, che lasciano scorgere le calze bianche. I capelli canuti gli scendono dietro le orecchie come la criniera ai cavalli, e la sua fronte alta e liscia, su cui batte la luce, sembra di una bianchezza irreale. I suoi occhi spenti, aperti, hanno l'espressione di certi occhi di animali, chiara e incantata. Sotto il ritratto, la sua scrittura incerta di vecchio mezzo cieco ha tracciato la dedica per mio padre. A Wilhelm Romeo. Quello che so riguardo le origini di mio padre, l'ho conosciuto che ero già grande. Fin da ragazzino avevo udito talvolta la gente dell'isola chiamarlo bastardo, ma questa parola suonava per me come un titolo d'autorità e di prestigio misterioso, quale per esempio margravio o altro titolo simile. Per molti anni nessuno mi rivelò mai niente sul passato di mio padre e di mio nonno. I procidani sono poco loquaci e d'altra parte io, sull'esempio di mio padre, non davo confidenza a nessuno nell'isola, non frequentavo nessuno. Mio padre viveva la maggior parte del tempo lontano. Veniva a Procida per qualche giorno e poi ripartiva, certe volte rimanendo assente per intere stagioni. A fare la somma dei suoi rari e brevi soggiorni nell'isola, alla fine dell'anno, si sarebbe trovato che, su 12 mesi, egli forse ne aveva passato 2 a Procida, con me. Così io trascorrevo quasi tutti i miei giorni in assoluta solitudine. E questa solitudine, cominciata per me nella prima infanzia, con la partenza del mio balio Silvestro, mi pareva la mia condizione naturale. Consideravo ogni soggiorno di mio padre sull'isola come una grazia straordinaria da parte di lui, una concessione particolare della quale ero superbo. Credo che avevo da poco imparato a camminare quando egli mi comperò una barca. E quando avevo circa 6 anni di età, un giorno mi portò al podere, dove la cagna pastora del colono allattava i suoi cuccioli di 1 mese, perché me ne scegliessi uno. Io scelsi quello che mi pareva il più indiavolato, con gli occhi più simpatici. Si rivelò che era una femmina e, siccome era bianca come la luna, fu chiamata Immacolatella. Quanto al fornirmi di scarpe o di vestiti, mio padre se ne ricordava assai di rado. Nell'estate io non portavo altro indumento che un paio di calzoni, con i quali mi tuffavo anche in acqua, lasciando poi che l'aria me li asciugasse addosso. Solo raramente aggiungevo ai calzoni una maglietta di cotone, troppo corta e tutta strappata e slentata. Mio padre, in più di me, possedeva un paio di calzoncini da bagno di tela coloniale. Ma fuori di questo anche lui, nell'estate, non portava mai altro vestito che dei vecchi pantaloni stinti e una camicia senza più un solo bottone, tutta aperta sul petto. Qualche volta egli si annodava intorno al collo un fazzolettone a fiorami, di quelli che le contadine comperano al mercato per la messa della domenica. E quello straccio di cotone, addosso a lui, mi pare il segno di un primato, una collana di fiori che attesta il vincitore glorioso. Thank you. La mia infanzia è come un paese felice, del quale lui è l'assoluto regnante. Egli era sempre di passaggio, sempre in partenza, ma nei brevi intervalli che trascorreva Procida io lo seguivo come un cane. Dovevamo essere una buffa coppia per chi ci incontrava. Lui, che avanzava risoluto, come una vela nel vento, con la sua bionda testa forestiera, le labbra gonfie e gli occhi duri, senza guardare nessuno in faccia. E io che gli tenevo dietro, girando fieramente a destra e a sinistra i miei occhi mori, come a dire «Procidani, passa mio padre!». La mia statura a quell'epoca non oltrepassava di molto il metro, e i miei capelli neri, ricciuti come quelli di uno zingaro, non avevano mai conosciuto il barbiere. Quando si facevano troppo lunghi, io, per non essere creduto una ragazzina, me li accorciavo energicamente con le forbici. Soltanto in rare occasioni mi ricordavo di pettinarli, e nella stagione estiva erano sempre incrostati di sale marino. Quasi sempre la nostra coppia era preceduta da Immacolatella, la quale correva avanti, ritornava indietro, annusava tutti i muri, metteva il muso in tutte le porte, salutava tutti. Le sue familiarità verso i compaesani mi facevano spazientire spesso, e con fischi imperiosi io la richiamavo al rango dei gerace. Avevo così un'occasione per esercitarmi nei fischi. Da quando avevo cambiato i denti, ero diventato maestro in quest'arte. Mettendomi in bocca l'indice e il medio, sapevo trarre dei suoni marziali. Sapevo anche cantare discretamente, e dal mio balio avevo imparato diverse canzoni. Certe volte, mentre camminavo dietro a mio padre o andavo in barca con lui, cantavo e ricantavo le donne dell'Havana, Tabarén, la Sierra Misteriosa, oppure le canzoni napoletane, per esempio quella che dice «Tu si a Canaria, tu si l'amore», sperando che mio padre ammirasse in cuor suo la mia voce. Lui non dava segno nemmeno d'udirla. Era sempre taciturno, sbrigativo, ombroso, e mi concedeva a malapena qualche occhiata. Ma era già un grande privilegio per me che la mia compagnia fosse la sola da lui tollerata nell'isola. In barca lui remava, e io sorvegliavo la rotta, seduto a poppa o a cavallo della prua. Certe volte, inebriato da quella felicità divina, mi scatenavo e con una presunzione enorme incominciavo a dare comandi. «Forza, remo destro! Forza col sinistro! Scia!» Ma se lui levava gli occhi a guardarmi, il suo splendore silenzioso mi richiamava la coscienza della mia piccolezza e mi pareva d'essere un'alice alla presenza di un grande delfino. La prima ragione della sua supremazia su tutti gli altri stava nella sua differenza, che era il suo più bel mistero. Egli era diverso da tutti gli uomini di Procida, come dire, da tutta la gente che io conoscevo al mondo, e anche, oh amarezza, da me. Anzitutto, egli primeggiava fra gli isolani per la sua statura. Ma questa sua altezza si rivelava solo al paragone, vedendo lui vicino ad altri. Quando stava solo, isolato, appariva quasi piccolo, tanto le sue proporzioni erano graziose. Oltre alla statura, poi, lo distinguevano dagli altri i suoi colori. Il suo corpo, nell'estate, acquistava uno splendore bruno carezzevole, e imbevendosi del sole pareva come d'un olio, ma nella stagione invernale ritornava chiaro come le perle. Ed io, che ero sempre scuro in ogni stagione, vedevo in ciò quasi il segno di una stirpe non terrestre, come se egli fosse fratello del sole e della luna. I suoi capelli, morbidi e lisci, erano di un colore biondo opaco che si accendeva a certe luci di riflessi preziosi, e sulla nuca, dove erano più corti, quasi rasi, erano proprio d'oro. Infine i suoi occhi erano di un turchino violaceo che somigliava al colore di certi specchi di mare intorbidati dalle nuvole. Quei suoi bei capelli, sempre impolverati e in disordine, gli scendevano a ciocche sulla fronte corrugata, quasi per nascondere con la loro ombra i suoi pensieri, e la sua faccia, che serbava attraverso gli anni il disegno risentito dell'adolescenza, aveva un'espressione chiusa e arrogante. Per me, che non potevo attribuire a lui nessun capriccio umano, il suo broncio era maestoso come l'oscurarsi del giorno, indizio certo di eventi misteriosi e importanti come la storia universale. Le sue ragioni appartenevano soltanto a lui, ai suoi silenzi, alle sue feste, ai suoi disprezzi, ai suoi martiri. Io non cercavo una spiegazione. Erano per me come dei sacramenti, grandi e gravi, fuori di ogni misura terrestre e di ogni futilità. Se un giorno mio padre si fosse presentato innanzi a me ubriaco o in delirio, certo io non avrei potuto supporre che anche lui andasse soggetto alle debolezze comuni dei mortali. Lui, al pari di me, non si ammalava mai, a quanto ricordo. Però, se io lo avessi veduto ammalato, la sua malattia non mi sarebbe sembrata uno dei soliti accidenti della natura. Essa avrebbe assunto ai miei occhi quasi il senso di un mistero rituale, in cui Wilhelm Gerace era l'eroe e gli officianti chiamati ad assisterlo ricevevano il privilegio di una consacrazione. E certo, non avrei dubitato che una qualche commozione del cosmo dovesse accompagnare questo mistero paterno. Esiste nell'isola una piana fra rocce alte, in cui c'è un eco. Certe volte, capitando là, mio padre si divertiva a gridare delle frasi tedesche. Pur non sapendone il significato, Io capivo, dalla sua aria proterva, che dovevano essere parole terribili e temerarie. Egli le lanciava con accento di sfida e quasi di profanazione, come se violasse una legge o rompesse una magia. Quando l'eco gliele rimandava, rideva e ne rilanciava di più brutali. Io, per rispetto della sua autorità, non osavo dargli manforte. Sebbene fremessi d'ansia bellicosa, ascoltavo quegli enigmi in silenzio. Non mi pareva di assistere al solito gioco dell'eco, assai comune fra i ragazzi, ma a un duello epico. Siamo a Roncisvalle e d'un tratto, sulla spianata, irromperà urlando con il suo corno. Siamo alle Termopili e dietro le rocce si nascondono i cavalieri persiani con i loro berretti puntuti. Quando, nei nostri giri attraverso la campagna, si trovava davanti a una salita, egli era preso da impazienza e partiva in corsa, con l'accanimento di un lavoro meraviglioso, come su per l'albero di un veliero. E non si curava affatto di sapere se io gli stavo dietro o no. Ma io lo seguivo a precipizio, pur con lo svantaggio delle mie gambe più piccole, e la gioia mi accendeva il sangue. Non era quella una delle solite corse che facevo mille volte al giorno in gara con Immacolatella. Era un torneo famoso. Lassù ci aspettava un traguardo acclamante e tutti i 30 milioni di dei. Le sue vulnerabilità erano misteriose come le sue indifferenze. Ricordo che una volta, mentre nuotavamo, egli si scontrò con una medusa. Tutti conoscono l'effetto di un simile accidente. È un arrossamento della pelle, di nessuna conseguenza e di corta durata. Anche lui certamente sapeva ciò. Ma al vedersi il petto segnato da quelle striature sanguigne, fu vinto da un orrore che lo fece impallidire fino alle labbra. Fuggì subito alla riva e si buttò in terra supino, con le braccia distese, come un caduto già sopraffatto dalla nausea dell'agonia. Gli sedetti accanto. Io stesso più di una volta ero stato vittima di ricci, meduse e altri esseri marini, senza mai dare importanza alle loro offese. Ma oggi, che la vittima era lui, mi invase un sentimento solenne di tragedia. Sulla spiaggia e per tutto il mare si fece un gran silenzio, e in questo il grido di un gabbiano che passava mi parve un lamento femminile. Sì, una furia. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.